se è cambiato qualcosa. Adesso è migliorato. Ha migliorato, ma la... aspetta un attimino, è buona come radio o è... c'è qualcosa che non va? Diciamo che è andato, dai lui, so ti dire una balla, è discreta. Oh, guarda, adesso ho passato un'altra cosa, si è cambiato, delle prove sto facendo, è un baracchinetto piccolo, quello piccolino, ma sono un microfono che sto mettendo a posto. È un po' di quelli abbassato, più bassa di tono. Oh, ho capito, allora, allora l'altro è lì. Allora, vediamo un po', questo è l'eco. Ecco, io dico l'eco. Allora, così tutto chiuso, così ce n'è appena appena. Però c'è questo... Ora. Diciamo una cosa ancora. Così com'è? Aspetta, Ora, così. No, mi piace. E così è normale? C'è poco di eco, se profondo va bene. E girando questo pomello cambia qualcosa o è rimasto uguale? No, uguale. Non va. Allora, appena c'è l'eco, giusto? Proprio poco, va bene così, dai. Con poco di effetto, va poco a poco. Andare. È positivo, dai. Adesso ce n'è un po', dai. Ma è meglio parlare così lontano, guarda, o così lontano o così vicino. Così vicino e così è lontano. Com'è meglio? Ah, va bene, se due lui, dai, diciamo che è più forte da più vicino, normale, no? È positivo, dai. Stavo facendo solo delle prove, dai. Allora, così ce l'abbiamo passato un po' di tonnellata di radio, ecco. Così è al massimo. Va buono. E un microfono l'ho messo a posto, dai. Gliel'ho messo a posto e niente. Tutto qui. Ma lo so, lo senti giù Claudio Cantina. Claro, ma è vero. Attento, lo spalliero. Radio. Spero non sia Claudio. No, non c'è sicuramente. Oh, questo è una cosa, lo dei bimbi, il bimbi si fa. Eia. Positivo, ci abbiamo anche il bimbi che lo piace, bimbi. A me come mi sta ascoltando lì, bene. Positivo, devo già fare per questo pulsantino che si incanta un po', quando lo muovo a volte non molla. Aspetta, vediamo un po' la differenza da questo passaggio, ok, 1, 2, 3 prova. Aspetta, allora questo passaggio, 1, 2, 3, affanculo, questo qua è più alto, è positivo, un pelino più alto e ho luce. Distorce, va bene? No, qua è l'altro, vicinanza non lo so, qua da me no, in lontananza no. Comunque la ascolti bene, tranquillo, sta fatto bene. Positivo, benissimo. Allora, poi ho fatto questa regolazione. Troppo grasso da qua, ma io arrivo così, c'è una fame. E mi ha detto con fame. Ci ho mangiato un bel pezzo di gorgonzola, lui, mamma mia. Nando, Marco, Nando. L'uomo si è una scenata, spalmata. Poi dico che ti è prosciutto, mi sono messo in mezzo. Ma tu fame, sì, che ripeto a fumare, è positivo, pure a me piace, me l'ho comprato una fetta grossa ieri. Io ho preso anche a volte la pizza con la gorgonzola, mi piace un bel la pizza con la gorgonzola a me. Ma ora non acco, ora la dolce, ora la piccante. Sì, anche a me piace quella dolce, anche a me. Comunque andavo a questo microfono, là, va bene, comincia la modulazione. Vabbè, questo baracchino, quello piccolino, quello piccolo piccolo. Negli altri andrà anche Emilio, stavo provando solo, l'ho messo a posto. Ma diciamo che è un orario accettabile, va bene. Siamo tre in camion, non so, va bene. Cade, è un microfono da tavolo. Microfono, un intec da tavolo, l'intec M500, capito? Capito, mi scusa. È l'intec M500. Ah, M500 il microfono, capito. E dai, si chiama Franco, no? Cos'è il grigio? Non si piega dove tu parli al microfono? Lui è nero, il microfono è nero, no, già si piega il coso, il microfono, però il coso è nero, nero, nero, nero, È flessibile, dai. Sì, è flessibile, però funziona. L'ho messo a posto, dai, non funzionava, l'ho messo a posto. Ascolta, c'ha anche lo slicker, non il microfono. No, non è asmi. No. Però. Ma se c'è, c'ha lo slicker. Non lo so. Cappa. Vabbè. Oh, voglia. Allora, Colato non c'è più lì vicino a te, no? Lui. No, è sparito Salvatore, non c'è più. Ci manca, da tanto. Mi sa che gli sta arrivando una persona, Non sono sicuro se lì o da una parte. Che mi fa vicino a me. Capito, c'è una persona che sta venendo da capitare qua, va? È posto suo, ha comprato lì. Non lo so, non lo faccio. Hai comprato quella lì, quella costa, è grande, Sono di Cuba, vedi, due piani con la casa lì. No, di sopra, di tanti anni, ho trovato il battaglione di sopra. Ma, cavolo, una casa singola quella lì, una casa... Ci sono entrato, non so, sempre ci sei entrato, sai, tu anche lì sulla Mazzarda, capito? Dicendo che ci ha comprato uno di sopra, perché lui ha anche una di punti, mi sembra, così mi stava dicendo. Magari, vabbè, conosci il fratello di questo qua, che come era autista era, da Mesina lavorava prima. Oh, la Masia, e come si chiama? Mesina. E chi è? Anche quelli che lavorano a Mesina conosco io. Trattano di Cavuagnoli, Bastiano. Ah, già compreso, non vedevo di 10. E non lo presenti, ho già avuto, sì. No, non lo sapevo, magari non mi ha dovuto accorgiare a Montuio, che lui è, non lo sapevo. È molto, un mesetto già, più di più. Non sapevo. Uno abita vicino alla Lega, ha già avuto un paio di voci. E che sopra che trovava da Mesina, l'ha già avuto quando sono venuto a trovare a te nel bar lì. Il Lattiano? Sì, dice che è morto. Sì, metti lui appena c'è la malattia. È positivo. Ma non è Graziano di vino che lo abita. Non l'ha detto. Ha già compreso. Ma non l'ho detto chi vi abita, ma se siete a te. Cosa? Si sono andati Gallo. Ho parlato già vicino a casa, hai visto? Si fa tanto vecchi di guarda, faccio un guarda a tutti, magari. Ma padre lo sta vendendo lui, capito? Sta vendendo. Sai come se ne sta andando la vita? Poi dice che aveva fatto l'affitto. E ora ha distribuito. Tanto vari ti mangono l'affitto in più a te. Cioè non ultimo ma la compra la casa. Non si ha fatto. È positivo. E ha pure un Graziano travagliato da Mesina, pure lui dove sta un bel tempo. Un po'. Tanta la baracchina più. Poco e niente Graziano a baracchino. Quasi niente. Sì, vabbè, io sono un po' di Gesù e di Giuseppe. Provo sempre di Giuseppe, sempre. Adesso vado lì al... Positivo, dai. C'è un periodo, un a metà, più che le vicine no, più sulla pagina. Papa ha travagliato in parame, nella dignità di Gesù che travaglia in via, ma te si dita. È stato travagliato in parame, Sergio Fanni, ha lavorato insieme a me, ha visto la luce. Ma chi mai va via? Ti dico Sergio. E così va via la legge. E se lo vogliamo l'articolato, è stato lavorato diversi anni con Ducci, dove lavoro io. Non so più lui, ma cosa intendo? E facciamo la nave di Ruperro in pari, travagliate con Ducci. Facciamo la nave di Ruperro, e noi avevamo l'articolato. Poi si è comparato con cosa con il Giulio, con 10 cami bici, compreso. C'hanno pure facciamo pure. Addirittura noi abbiamo mandato in Arabia Saudita, stavamo mettendo in contrigato, l'abbiamo mandato qua carico di frutta, di meticoloso, e l'ha preso, se ne è durato in aereo, e abbiamo abbandonato i camion, e due Sergio impara un altro. L'abbiamo mandato a fare il viaggio e lo hanno buttato a Sergio, se ne sono tornati. Abbiamo un altro camion in Italia e l'ha dovuto recuperare con l'acqua autistica. Mi sono troppo caldo, mi sono inutile ghiacciava, mi sento con calduio, sono attrezzato un camion era un caldo, avevo abbandonato con camion aereo e se ne sono tornato. Io non so per lui, avevo detto la verità, ma poi cosa ne sento? Io so che la padroncina c'era un camion, lui, che c'era un 80, non mi ricordo. E poi mi stai dicendo così. Comunque però cosa ne sento? Non sapevo lui che anche lui guidava l'autoarticolato. Sì, dall'anno 70, primi anni 70 guidava, prima degli anni 70. Poi se ne è andato da lui, da noi, se la porta da festa, che è diventato padroncino, compreso era Edo, andò via la nave, no, fino a traghetto doppio, stata di prima e poi ci torno, non travagliava con le pacchette dei morchi e facevano continenti di Sergio. Edo, Maurizio Ponti che è l'altro Idine, era tutto in pari, non travagliava nella tutti con doppio, quindi sono sempre travaglio io. Conosce bene la Padre Graziano, perché la madre la buon'anima, conosce la moglie molto bene, la amiche, diciamo, dai. E vabbè. Io l'ho visto qualche mese fa, no? Non 3-4 mesi, come si fa, non mi ricordo. Ah, ma seduto. Tranquillo parlando, e poi boh, così. La vita, la testa come gira, un attimo. E ti ci porta via. Positivo. No, ho conosciuto più di 30 anni a sei. Più di 30 anni ho conosciuto a Sergio. Proprio qua anche mi ha fatto l'udita. Caffarroggio. No, poi se la butta in ultimo a Conto Giulio, compreso. In ultimo se la butta a Conto Giulio. Poi a volte veniva pure a fatto Rati da. E poi ultimamente ha atterrato con Carlini, la dirigente, che Sergio Capodagnone, è stato ultimi anni prima andare in pressione, è stato con Carlini, mi travagliate proprio pure i miti di Carlini. E noi in realtà che abbiamo mollato il chimio, era la notizia con Carlini. Ma è per cuore, usci Sì, cuore, da poco mi faccio lavorare. Sai, insomma, se ce l'ha passato la cara, ha travagliato, sai, con i rimorchi di cose, faccia pure la cisterna, con Giulio, dalla sala, cioè con Carlini. Non c'è una cisterna pure, ha travagliato, con l'articolante di Carlini. Ma la prima cosa che sento, lui, veramente. Io lo so che fa mi si accappava, mi si via gente, no? Si vediamo quasi ogni santa linea lo conosco, come sono pensati a Sergio. Ma come ha scommesso? Positivo, lui ha finito con Carlini, si è andato in pensione con Carlini. E due Giuseppe Frullana, mise pure una definizione da Carlini, travagliava anche pure a Porto Gioio, e poi era venuto Torinese, e si è andato a fare l'autista, si è fatto serio, ma prima faceva l'autista a Porto Gioio, poi c'era pure a Porto Gioio, mi sono 90, cos'era, poi c'era venduto e altre, mi piace un camion a Corso, a Graziano, se sta a me. O una motrice o un lavoro mi pare che era esattamente vero. Poi viene venduto questa motrice, un lavoro e niente, è brutta da fare l'autista. Sono la verità, la parte non è senso. Ho detto che sono una con i comici di invece ci là. Conosci più bene abbastanza. E vabbè. Perché una malattia non perdona nessuno, non la faccio né a te né a me, né a nessuno. Cambio di frigo regalo, cade in chi la asciugherà, questo si arrega. È positivo, positivo. Infatti quando l'ultima anno lo vedevo con Carlini, con Corso, travagliato, ma come mai? E non va bene dato contributi, tutti i contributi, si deve andare in pensione, va bene la pensione, ha continuato a travagliare, infatti se ne è andato proprio in pensione da Carlini, travagliando con Carlini, ho visto un tragitto con Carlini, così. E ho voglia che a te lo conoscevo abbastanza bene. Se vuoi dire, abbiamo travagliato qualche buone buone, non ha detto in pace. Allora posso creare una cifra, le autiste la mattina lì, con tutti mi pare di agliarmi con un ferro da navigare le navi da Pocio Torre. Allora già conosci a stesso. Ma quando non lo conosci me? Oh Guglia, vabbè, io non lo cambio adesso però Gianni, ma non lo vero. Questo non conosci me? È positivo, ma sta bene che era molto... Già, forse se vediamo sempre, se sentiamo, non mi ha detto niente, non mi ha detto in cosa, non te lo so più di, non lo so, come mai non me l'ha detto. Vabbè, già lo sa benissimo che ci conosciamo con lo Zuzzaro, lo sa benissimo. Braccio, vabbè. Perché già qui scritto una cosa. Saluta. Vabbè, anche così infatti. Capito lui. Capito così. Vabbè. È un bel casotto. Poi via. Proprio che uno fa tanti sacrifici, tanti anni di lavoro, e poi arriva dunque. E se la abbia così non te viene in culo. Perché così. Sì, è proprio così, no? È proprio così, purtroppo è una cosa, una malattia proprio fea, mi rendo già scarlo quello che faceva lavoro di fare i baracchini stesso, non si è molto, si è molto ma questa malattia. Ma io mi ricordo un ragazzo che conosco, questo mi ha raccontato lui, diciamo qual è, 30 anni, 31, boh. Saluto qua. E niente, manca lamentarsi all'ospedale, perché c'è un corso che stava male. E gli ha detto, quello era un viziato, mi piace stato a Capurgino via. Vabbè. Cosa ha fatto lui? Ha preso, è sceso a Cagliari. Farsi controllare, un tumore al cervello, cioè un tumore in testa, diciamo, vabbè, poi la morale della favola, prende e fa la denuncia, quelli che doveva farsi controllare, praticamente era viziato, ma se io ti dico che sono tumore, sono male, perché mi viene a dire che sono viziato, vabbè, comunque, guarda, in giro di 3-4 mesi ce n'è molto. Lo so. Sono cose bruttissime, ragazzi. Cura che ha capito di queste cose. Ma sì, non ho visto la vita, non ho tre volte. È così, guarda, siamo di passaggio. Facciamo tutto che noi facciamo. Noi tra la vita, noi tra, cioè noi senti matrimoni, lei mi fa, mi fa, oggi mi compro questo, ma te lo compri. Certo, cosa me la non è nuda, si è rimasto agli altri lui, si è rimasto agli altri, faccio conviene sempre fare le cose che senti di fare. Positivo, positivo, positivo, infatti io il proprio che faccio se la presento se non mi lascio male, si sa male, io me ne so un po' che sono sempre male, insomma, sono tempi brutti. Vabbè, tanto lui, mi sa cosa mi ha pensato, io, avevo una bella mattina che la compri, la mattina nuova, cazzo cosa è? La tua vettina non vai, dici, tanto c'è la macchinetta nuova, tanto, ci vuole le pensioni. E tu la putti, tu la putti, non lo so, come ti piace, qualcosa va brutto, quello che vuoi tu, o ti fa un bel viaggio, non mi so, che cosa la devi fare, no? Positivo, positivo, io una macchinetta me la dovrò comprare, no? Nuova. Oh, l'ho messa a posto quella là, dai, l'ho fatto delle lavoretti al motore, me l'ho rimessa a posto, poi con i miei altri critici di cambiare dei costi, tanto che si è pagata e tutto quanto, me l'ho messa a posto perché era fatto un po' di tempo ancora, l'ho messa a posto e già va bene adesso, un po' più di carrozzeria che è fatturata, ora la faccio all'acqua, però di meccanica già è a posto, è perfetta, capito, non ho fatto delle lavoretti che c'erano da fare, ho fatto le connessioni intestate, pianate, queste cose così, perché perdeva un po' d'olio, capito? E questi lavoretti gliel'ho fatti. Così va lui qua, è rimasto un po' qua, troppo, ecco qua, e vabbè, la vita è così, un diviso domani non si sa, via. Io tu prendi ad esempio quelli che lavorano al comune, però che mi sono capitato, non me l'hanno raccontato, no? Cazzo, tanti anni al comune, e pensioni, la due mesi morti. Cioè, non mi travagliato, Barosa, parlaste. E di solito sono sempre così, tu. Allora, non ti venire a delle pensioni, la pensione, se ne godere poco morire subito. E vabbè, dico. Ma noi non devi lasciare niente lui. Però per mangiarsi di lasci, niente di cura invece di mangiare i tuoi figlioli, tutti i figli, tua moglie, sono più parenti, tu li frutti, capito? Molte volte se ne mangia una persona che non ti sono niente, come per esempio è capitata una mia zia, cioè deceduta anche di giovane, e quindi era questa donna, questa donna non aveva né parenti né niente, e mi ha lasciato un pacco di roba, case, guarda, non ti dico. Capiteggia, dai. Invece mi pare che Sandra Montagna non ha lasciato tutta il pianeta, che ti vede fine, però non ha lasciato nessun iscritto. Sì, lui. Cazzo, la viene di sì, eh. Ma mi pare non ha lasciato niente. Hai visto che trattavano ai cibizzini, ma mi pare non ha lasciato nulla. No, ha lasciato quello, sì. Un po' lo sa. No, ha chiesto, l'intesa c'è ragione, invece l'ho segnata e ha detto no, non ha fatto nessun iscritto, non ha lasciato proprio nulla, perché parole l'ha detto, ma non ha per l'iscritto, hai capito? Guarda, che la mamma lì lo sa, te lo dico subito. No, io pure pensavo che era stato qualche cosa, invece me l'hanno dice che c'era scritto nel giornale le cose, che non ho lasciato nessuno cosa. Io un giorno ascoltando così l'ha detto lì che lasciava tutto a questi bambini, due vicini di Maria Filippini, che erano tutto, quelli che erano alle loro dipendenze lì, dai. E io ho convinto pure io, invece c'è inteso che non ha lasciato niente, addirittura. Però su qua io anche la mamma e te lo posso dire subito all'istante. Ma però lui lo sa, perché c'è stato un mezzo casino, è vero. Stavo bestricciando per questa eredità. Però so che hanno lasciato tutto a loro, perché non avevano né parenti, né figli, né niente. I 10 figli erano loro adottivi. Positivo, però mi pare che a parole, ma scritto non c'era niente, capito? Io questa storia ho sentito, hai capito? Perché io ho detto così, non parlando, no, guarda, c'è scritto nel giornale, non ha lasciato, non gli fa nulla a questi qua, perché non c'è nessun, solo parole, dette a parole ma non c'è scritto, non c'è nessuno scritto che gli lascia l'eredità, capito? Non sa per tutta questa roba, scusa. Ma mi ero stato da mezzo. La fermata che mi ero stato, come si sbigliava? Non ne ha bisogno, no? Tu cosa ne dici? No, il Filippino non gli ha avviato niente. Ma in italiano non si mano, no? È positivo, positivo. Boh, non è cosa vuoi dire. Purtroppo, non lo so. Non lo so, io sento così, dai. Ho sentito perché sapevo che doveva dare in eredità a questi filippini. Quando sono morti, non si era detto, ma in eredità gli filippini. Invece no, dice che c'era specificato nel giornale che non c'era nessuno scritto, nessun documento che... Ecco perché no, quando loro dice, ma hanno detto che la c'è tutto a noi. No. Non c'è nessun scritto che diceva di lasciare a loro, capito? Buonanotte. Ma io lo chiamo, ma lì lo sa subito lui. Forse come stai dicendo così, io non si ribelli di una. Se guarda che come si chiama? Il funerale, si è guardato anche in televisione. Positivo, no? Io ero convinto, io ero sento partendo, perché l'ho sentito qualche volta che lei l'ha detto, no? Si andava tutti questi due bambini come che fossero i figli, capito? E quello l'ho detto subito, io gli parlando con tra amici, come se potete fare delle utili, no. Dice a parole, ma scritto non c'è nulla, se mette guarda i giornali di lì, c'è tutto, dice no. E già è successo un mezzo casino per questo eredità loro, capito? E niente, proprio niente da fare, perché non c'è nessun documento, nessuno scritto, capito? Le parole dice se le porta via al vento. E cosa vai che la mamma va? Oh, iaia, che casino. Per carità, no vabbè, che ci può fare? Se va a loro, io dico che pure alla fine già stanno bene, perché ne hanno lasciato. Ne hanno lasciato e come? Pure, se va a loro, allora io non la gliela tenuta, sinceramente. L'avete testato magari a... qualche italiano, noi salienti, senza funere la cura, cazzo, cioè, siamo più, ce ne abbiamo bisogno noi di loro, ma siamo in appunto noi di enti, ma ci vogliono l'italiano, e ne ha più bisogno di loro, perché se non hanno bisogno, ci mettiamo che i grandi arrivini. Ma ne facevano tutte le cose, dai, loro facevano le pulivano a casa, cucinavano, facevano tutto, lui faceva il giardiniere, facevano tutto, tenevano tutto in ordine, capito? Ed ecco perché, capito? Non è che si sono comportati male questi qua, si sono comportati sempre bene con loro, capito? Guardate, fosse stato un italiano, non se non l'ha mica fatto lo travaglio, diciamo come lo facevano loro, difficile che lo facessero, capito? Se sono noti questi filippini lavorano, fanno il lavoro quando le prendono in casa, le fanno veramente dei lavori queste filippine. A voi che italiani invece non lo fa. Vabbè. Ma io so che tutto loro, io ho fatto uno scritto, ma io non sono la mamma, non male te lo dico, se ti fa sentire, ti ho una risposta. Sono sicuro che gli hanno lasciato tutto a loro. Non lo so, io ripeto, io sapevo così che era tutto per loro, però ho sentito questa cosa e non lo so, questo fatto qua ho sentito. No, che fuori lui, tra di loro hanno bisticciato, hanno fatto un casino nero. Tra di loro chi? Tra di loro, la famiglia che hanno... Siamo loro, ecco, questi ragazzi, diciamo. Adesso che sono che è morta Sandra. E via, è morto un casino di fatto. Addirittura, forse anche non era stata detta. Tra di loro stavamo bisticciando, capito, chi voleva di più, chi voleva quello, chi voleva quell'altro. Ecco, ma cosa non è dato di vista che non aveva nessun inquisto. Non sarà per quello. Infatti. Infatti, capito. Non lo so. Messi qua, a fa con lui. Vabbè, non lo so. Non ha la dubbia, da due. Lui gli avrebbe fatto il giardiniere, vabbè, pure la donna gli avrebbe fatto la mangiare, pulizia in casa. E lui fatto buio da italiano, cosa c'entra? Positivo, ma mi sembra che quelli lo fanno di più, quello fuori di queste chiedi. Credo, non lo so. Non lo so. Questo comunque c'è uno, mi avvengono, tutti e due hanno lavorato e hanno ragazzi un bel. Lo so. Falchetto. Ecco, mi stavi dicendo lui? Ma deve da Falchetto di qui. Comunque devo fare il testamento. Non ho capito, non lo so. Devo fare il testamento per questa roba qua. Tutte le case, dove che dire, come vale. È successo un altro casino, capito? Sì, ma che ti ha detto tua madre adesso? Cappa. Lo so. E questi sono già grandissimi questi. Prima i piccini di una mamma l'hanno più di 18 anni pure. Non ho capito, questi ragazzi? Hanno più di 18 anni adesso. Amoroso. Questo non posso dire lui. Io me ne andavo a vedere un po' di televisione, va. Anche io adesso lo vedo. Vado a mangiare una cucina. Cappa. Va bene, Luca, dai, ce la riascoltiamo. Se tu ci dà domani, dai, io me ne vado su con un po' di televisione. Ciao lui. Buonanotte, alla prossima. Dottore già accendo, tanto non devo uscire. Ciao. Ciao.